Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. Bentornati sulle frequenze di Blu Radio Veneto con una nuova puntata di Fuori di Noi. E per fortuna Anna sei ritornata. Ciao Anna. Ciao Christian, ciao a tutti. Benissimo Anna, io da solo sai non sono tanto bravo a condurre questa trasmissione. Poi la tua voce, la tua simpatia. Beh, innanzitutto facciamo subito gli affari tuoi. Allora, dove sei stata? Abbiamo sentito, ho raccontato, ho detto appunto ai nostri radioascoltatori che eri anche un po' ammalata. Ma poi sei andata anche a Roma. Quindi ti sei liberata, diciamo, da questi virus, diciamo, primaverili che ancora continuano però a colpire tante persone, e sei andata a Roma. A Roma. A fare che cosa allora? Allora sono andata al Centro Nazionale dell'Azione Cattolica. Azione Cattolica, perché ricordiamo che Anna Zampieri è una delle responsabili della CR diocesana di Treviso, collabora con la trasmissione Fuori di Noi, perché ogni settimana, dalla prossima settimana, continueremo, diciamo, questa collaborazione invitando dei gruppi ACR qui negli studi di Blu Radio Veneto. Registreranno con noi alcune appunto impressioni, alcune, diciamo, storie riguardanti appunto l'ACR che vivono all'interno della parrocchia, bei messaggi, attività, iniziative che quotidianamente, settimanalmente vivono all'interno delle proprie comunità. Anna, allora, Roma, Azione Cattolica, a far che cosa? Allora, faccio parte, ecco, della Commissione Nazionale Protagonismo e Animazione, sempre per quanto riguarda l'articolazione ACR. Quindi, concretamente, pensare a delle proposte, fissare degli obiettivi per il percorso dei ragazzi del prossimo anno. Con chi ti sei incontrata? Con chi, cioè, quindi c'è una commissione che elabora forse anche dei documenti, dei testi che poi ovviamente verranno anche distribuiti all'interno delle diocesi e quindi cadranno anche nelle parrocchie e faranno, diciamo, da perno per le attività, per i gruppi e per tutta l'animazione che avviene appunto come ACR, come AC in parrocchia. Sì, allora lì c'erano altri ragazzi, sempre educatori ACR, provenienti un po' da tutta Italia, quindi Pisa, Volterra, Ancona, Ragusa, ecco. E niente, quindi assieme a loro abbiamo condiviso anche le nostre esperienze quotidiane che abbiamo nelle nostre realtà parrocchiali e ognuno, diciamo, ha cercato di dare il proprio contributo, pensando sempre, questo è importante, tenendo sempre alta l'attenzione sui ragazzi che sono il centro, ecco, del nostro servizio e coloro che devono essere sempre valorizzati da parte nostra. Dopo questa esperienza romana, hai visto un'Azione Cattolica, una CR in salute anche a livello nazionale o, diciamo, un po' in difficoltà? No, l'ho vista in salute. Tra l'altro, questo weekend appunto in cui sono stata io, c'era anche, si riuniva anche il Consiglio Nazionale di Azione Cattolica, quindi abbiamo visto i responsabili nazionali della CR, la responsabile, ecco, Teresa, che saluto, poi i vicepresidenti giovani, quindi il presidente nazionale, e quindi insomma li ho visti tutti carichi, proprio pieni di entusiasmo, energia, anche se adesso, diciamo, quest'anno sta quasi per concludersi, però li ho visti ancora desiderosi, ecco, di mettersi in gioco e di pensare a delle belle proposte. Quindi questo incontro, questo weekend, diciamo, romano, ti ha praticamente confermato che lo slogan, diciamo, di quest'anno, di puntare in alto, diciamo, è confermato anche dalla presenza, dalla gioia, dall'entusiasmo che hai potuto appunto anche percepire in questo incontro, in questo anche incontro che non è stato soltanto appunto un incontro simpatico ma anche di lavoro, in cui state già pensando al futuro, diciamo, della CR e dell'Azione Cattolica. Bene Anna, ma pensando proprio al futuro, noi pensiamo nel nostro piccolo, anche come oratori, diciamo, e anche come animati di ACR, al prossimo Grest, perché io sto aprendo adesso, in questo momento, mentre vi sto parlando dai microfoni di Blu Radio Veneto, il sito www.noigrest.it, e come possiamo vedere e come potete magari vedere anche voi se avete vicino anche un computer o uno smartphone per entrare in internet, c'è già l'aggiornamento quasi completo della storia di quest'anno che si chiamerà Stella. Le presentazioni del Grest ufficiali sono già avvenute a Venezia, sono già avvenute a Verona, sono già avvenute a Vicenza qualche giorno fa, e il 20 aprile all'auditorium del collegio Pio X alle ore 20 20:30 ci sarà la presentazione ufficiale del GREST, della proposta che Noi Veneto ha fatto per il GREST 2012, quindi segnatelo nel vostro calendario se siete appunto animatori, se in qualche maniera collaborate all'interno della vostra parrocchia per il bene del GREST, la data del 20 aprile a Treviso, Collegio Pio X, presentazione della storia. Qui abbiamo appunto sempre navigando nel sito www.noigrest.it e cliccando sull'icona stella che è appunto il tema, il titolo della storia di quest'anno, anche notizie aggiornatissime sui corsi di formazione che diciamo si sviluppano in tante zone, a Quarto d'Altino, a Venezia, Eraclea, a Zelarino, a San Stino di Livenza, addirittura a Padova. Poi ci sono addirittura l'anticipo di alcune canzoni presente nel CD sussidio Stella 2012, addirittura c'è già il merchandising e addirittura ci sono anche i personaggi protagonisti di questa storia. Per quanto riguarda le canzoni, vorrei dire che c'è una sezione riguardante anche i video dove ci sono praticamente le coreografie legate alle canzoni pensate appunto per il sussidio 2012. Allora, cosa aggiungere? Dico semplicemente andate a visitare e diciamo sfruttate al massimo www.noigrest.it perché là potrete appunto trovare tante idee, tante diciamo anche materiale appunto per già pensare ad un incontro di programmazione nelle vostre comunità, nelle vostre parrocchie, per progettare il GREST appunto futuro. Qui mi è arrivato un altro volantino, una proposta che fa la diocesi di Treviso insieme con la pastorale giovanile sempre appunto della diocesi, educare attraverso il gioco, esercizi e tecniche per lasciare traccia, weekend per animatori GREST, proposta 2012, unitamente alla cooperativa sociale Servire. C'è un fine settimana molto importante fissato a Bibione in provincia di Venezia presso l'oasi San Dorotea il 19 e il 20 maggio, rivolto, ripeto ancora, agli animatori del GREST. Il costo del laboratorio è di 50 euro, ritrovo ore 16:30. Per informazioni, indicazioni, per prenotazioni bisogna rivolgersi a l'associazione Noi Treviso, il telefono 04 22 41 95 38, info@noitreviso.it, oppure appunto mandando un'email al presidente di Noi Treviso, Marconato Don Bernardo, donbernardo@team.it, oppure presidente@noitreviso.it, e le informazioni le trovate ovviamente anche sul sito. Quindi cercate appunto di iscrivervi il prima possibile. L'età degli animatori deve essere dalla prima alla quinta superiore, e dopo aver dato tutte queste informazioni riguardo la CR romana e la CR diciamo futura e il GREST che è ormai alle porte, noi partiamo con il primo brano musicale che appunto la regia ci suggerisce essere quello di Tiziano Ferro con Il regalo più grande, e il GREST è uno dei regali più grandi che possiamo ricevere all'interno della nostra parrocchia. Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno, o mai accettato, e di quelli che apri e poi piangi, che sei contenta e non fingi, e in questo giorno di metà settembre dedicherò il regalo mio più grande. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante, che non importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire, però so nel cuore la tua presenza. È sempre arrivo e mai partenza. Regalo mio più grande, regalo mio più grande. Vorrei mi facessi un regalo, un sogno inespresso. Donarmelo adesso, e di quelli che non so aprire, di fronte ad altra gente, perché il regalo più grande è solo nostro per sempre. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna, perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante, che non importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire, però so nel cuore la tua presenza. E sempre arriva mai, e se arrivassi ora la fine, che sei un burrone, non per volermi odiare, solo per voler volare. Se ti nega tutto questa estrema agonia, se ti nega anche la vita, respira la mia. E stavo attento a non amare prima di incontrarti, e confondevo la mia vita con quella degli altri. Non voglio farmi più del male adesso, amore. Chi la guarda possa pensare a te, ricordarti che il mio amore è importante, che non importa ciò che dice la gente. Poi amore dato, amore preso, amore mai reso, amore grande come il tempo che non si è reso, amore che mi parla coi tuoi occhi qui di fronte. Trasmissione appunto Fuori di noi, e derivante appunto dalla collaborazione tra Noi Padova, Noi Treviso, Noi Venezia. Alla regia sempre il nostro Eddie Daici, che salutiamo e che ringraziamo perché ci accompagna appunto sempre. Avevamo detto, se avevi appunto sentito le passate puntate, c'eri anche tu appunto, avevamo presentato anche un convegno che era stato organizzato dal Noi Treviso qui appunto all'Auditorium Pio X, invitando Don Fortunato Di Noto, presidente dell'associazione Meter, per parlare di comunicazione. L'avevamo intitolato Download Oratorio Noi.it, virus e gli antivirus delle relazioni, quindi utilizzando, parlando dei mezzi tecnologici che oggi i ragazzi utilizzano per la maggior parte. Parlavamo poi di educazione: questi mezzi, diciamo, tecnologici possono servire ad educare, possono servire ad annunciare. E allora ho avuto la possibilità appunto di incontrare e di partecipare alla serata che Don Fortunato Di Noto ha presentato e su cui appunto ha fondato la sua relazione. Ma prima ho voluto anche fargli qualche domanda, una piccola intervista che adesso mandiamo in onda attraverso i microfoni e appunto Blu Radio Veneto. Bene, allora siamo qui arrivati all'appuntamento annuale che Noi Treviso Associazione propone a tutti i volontari, a tutti gli educatori della diocesi di Treviso. Un convegno che ha un titolo molto importante, oratorio perché non siano solo parole. E abbiamo come ospite principale quest'anno Don Fortunato Di Noto. Ciao Don Fortunato. Salve a voi, salve a tutti. E ben arrivato qui a Treviso. Allora, tu sei anche il fondatore dell'associazione Meter, ma per chi non la conosce, che cos'è Meter? Beh, Meter è un'esperienza che nasce 21 anni fa, nasce in una comunità ecclesiale ad Avola e nasce soprattutto da un'esigenza, in maniera tutta profetica diamo risposta al fatto che i nuovi spazi, che erano gli spazi tecnologici, digitali, quindi internet in questo caso, veniva poi utilizzato dai minori, dai bambini. Ciò ha significato un'attenzione maggiore e soprattutto un impegno affinché gli esecrabili atti nei confronti dei bambini non venissero perpetuati né tantomeno poi diffusi attraverso la rete internet. È una realtà nazionale con diramazioni internazionali, presenti nel territorio italiano con 500 volontari, siamo presenti in quasi tutte le regioni, ma anche promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e voluta e sostenuta anche dalla mia diocesi, che è quella di Noto, che non fa altro che promuovere proprio i diritti dell'infanzia a 360 gradi, perché è vero che abbiamo tanti bambini, ma a volte sono bambini deprivati, bambini orfani con genitori vivi, in una realtà educativa frammentata e soprattutto difficile oggi più di ieri. Credo che Meter, ma assieme sicuramente all'associazione tra noi, agli oratori che dove voi siete presenti, sicuramente si dà un valore in più, un percorso in più, una possibilità non soltanto come luogo ma come esperienza viva, non solo per l'incontro con Gesù Cristo ma per l'incontro con l'umano, quindi con le persone che frequentano anche questi oratori. ognuno deve fare la sua parte, la faccia bene, ma deve vincere anche una gelosia, quella dell'individualismo. Io credo che anche stasera questo appuntamento vostro annuale è la dimostrazione che si può lavorare insieme, si può ricevere esperienze comuni per rilanciare ulteriori percorsi a tutela nell'affetto e nell'amore educativo nei confronti dei bambini e dei genitori. Don Fortunato, la serata di questa sera ha un titolo un po' particolare: www.oratorionoi.it, virus ed antivirus nelle relazioni. Allora ti chiedo questo: noi abbiamo tanti oratori, ovviamente i destinatari principali dei nostri oratori sono i ragazzi, i bambini. Abbiamo anche tanti volontari che sono educatori al di là del bancone o anche in mezzo appunto agli ambienti oratoriali. Quali secondo te oggi le attenzioni che deve avere un educatore, un animatore di oratorio? Ma l'animatore, l'educatore deve sempre educarsi, e questo è un percorso formativo direi quotidiano, quindi anche se si è giovani educatori, i giovani educatori devono sempre educarsi per diventare sempre testimoni autentici nei confronti dei ragazzi a cui si rivolgono e a cui i ragazzi hanno bisogno come punti di riferimento. Oggi, nella mancanza di maestri, mancanza di punti di riferimento forti, di testimoni del Vangelo, e non solo del Vangelo ma anche della vita sociale, pubblica, culturale, politica, io credo che i ragazzi devono vedere nell'educatore, che può essere un giovane educatore ma può essere anche un genitore educatore, quindi che si pone a servizio dell'oratorio, a servizio di questo spazio importante dove c'è una comunione, una convivialità. Quindi importante l'educazione, e poi del resto ogni educatore, se è educato, credo che sono poche le piste su cui deve muoversi. La prima è la sua autenticità, la seconda è la sua responsabilità. Oggi si richiedono uomini e donne responsabili e non più approssimativi, e quindi non certamente tanto per fare un qualcosa di servizio, ma un servizio che rivaluti sempre la persona, perché nell'oratorio c'è sempre la persona al centro di ogni cosa, e soprattutto quando sono bambini c'è l'attenzione profonda a quei bambini che, pur vivendo lo spazio dell'oratorio, magari stanno molto più ore all'oratorio che a casa, quindi l'oratorio deve diventare una casa vera e propria, quindi una famiglia capace di poterlo accudire, sostenere, accompagnare e ascoltare, e perché no anche abbracciare, nella misura in cui quell'abbraccio lo porti in una dimensione profonda nel sperimentare l'amore, e che è l'amore di Dio. Ultima domanda, Don Fortunato: come vedi appunto il 2012 per noi Treviso Associazione, e noi Associazione, è un anno molto importante perché festeggiamo appunto i 10 anni di vita. Allora, gli oratori e la sfida appunto con questi nuovi mezzi di comunicazione, comunicazione che tu conosci benissimo, social network, internet, qual è l'augurio che ti senti di consegnare, di dare a tutti i nostri oratori che nelle attività, nelle proposte che fanno, tante volte si scontrano o in qualche maniera sono un po' perplessi da questi nuovi mezzi di comunicazione e di attrazione per i giovani? Ma i 10 anni sono sempre un traguardo di maturità, e il traguardo di maturità ci fa vedere oltre, e l'oltre è già l'oggi che viviamo. Noi sappiamo benissimo che non possiamo più tornare indietro nell'utilizzo delle nuove tecnologie. I bambini digitali, noi nati digitali, ce li abbiamo tra di noi, sono in mezzo a noi, frequentano gli oratori, frequentano le parrocchie, frequentano le associazioni, hanno nuovi linguaggi, nuove percezioni, hanno un nuovo modo di vedere anche l'uomo. Allora io credo che l'augurio più grande è di non sconnettersi con la realtà. Ecco, l'associazione Noi, e quindi Noi Treviso, e il servizio che si fa all'oratorio, e quindi anche di conseguenza nel mondo delle aggregazioni, che possono essere anche i cosiddetti circoli, io credo che devono connettersi sempre di più con questo nuovo mondo, che è un mondo sempre affascinante, che ci deve fare stupire, non dimenticando che in questo mondo, che è il mondo reale ma anche il mondo virtuale, che ha incidenza nel mondo reale, lì c'è sempre l'uomo, lì c'è sempre un bambino che richiede di essere accompagnato nel percorso della vita. Don Fortunato, ultima domanda, la domanda delle 100 pistole, diciamo così, noi la facciamo sempre ai nostri ospiti all'interno appunto dei nostri incontri, diciamo, annuali. Se dovessi descrivere con un oggetto l'oratorio, quale sceglieresti e perché? Ma io sceglierei un catino, che possa essere il catino dove raccoglie l'acqua, che può rinfrescare, diventa sorgente zampillante di vita nuova, però anche un catino che può raccogliere il sangue, il dolore e la sofferenza per accompagnare eventuali percorsi di croce che dai bambini agli adulti possono eventualmente vivere. Ecco, l'oratorio lo vedo come un catino. Benissimo, grazie Don Fortunato e buon lavoro. Grazie. Ecco, speriamo dopo questa intervista di avere la possibilità magari delle prossime settimane, Anna, di mettere altre piccole pillole che abbiamo, diciamo, raccolto durante proprio la serata del 16 di marzo all'Auditorio Pio X, appunto, dove avevamo ospite Don Fortunato Di Noto, che abbiamo ascoltato e su cui, appunto, sulle cui parole, appunto, forse bisogna un po' riflettere anche noi come oratori e come, diciamo, impegnati, diciamo, persone impegnate nell'animazione. Ma adesso andiamo con il prossimo brano musicale e dedichiamo a tutti i nostri radioascoltatori una canzone dei Corso un po' datata ma bellissima, Breathless. Go on, go on, leave me breathless. Benissimo, con questa canzone noi siamo anche all'ultimo, diciamo, momento per quanto riguarda la puntata di Fuori di Noi, dedicata sempre al mondo degli oratori e al mondo giovanile. Abbiamo sentito appunto Don Fortunato Di Noto, che è stato ospite qui a Treviso, che ci ha parlato di oratori, di educazione e dei mezzi tecnologici che appunto i nostri giovani usano, virus e antivirus nelle relazioni. Tante considerazioni sono state fatte anche durante la serata, tante difficoltà che sono state espresse dai molti partecipanti, eravamo più di 200, diciamo, nell'auditorio Pio X. Abbiamo detto, appunto, riferito che il sito anche riguardante il GREST, promosso da noi Veneto e che va in tutte le diocesi appunto della nostra regione, è aggiornatissimo per quanto riguarda la proposta 2012. Basta andare sul sito www.noigrest.it. Ma adesso abbiamo un momento altrettanto importante perché ricordiamo che l'associazione, lo stiamo anche ricordando attraverso le interviste ai vari responsabili territoriali e nazionali, che quest'anno, proprio il 2012, festeggia il 10° compleanno di Noi Associazione. Noi Associazione nasce appunto come evoluzione del vecchio ANSPI e appunto oggi riunisce a sé più di 1000 oratori sparsi in tutta Italia. Noi Treviso, per ricordare, celebrare, festeggiare appunto questo speciale compleanno, ha organizzato una festa che si svolgerà domenica 15 aprile 2012 nell'oratorio San Giorgio di Quinto di Treviso. Alle ore 9 è previsto l'arrivo appunto in oratorio di tutti i partecipanti e alle ore 17 la conclusione finale. Ci saranno giochi, c'è il momento appunto anche della Santa Messa, diciamo, animata dagli oratori, ci sarà il momento dei laboratori in cui cercheremo, sia per quanto riguarda il settore ragazzi che per quanto riguarda il settore adulti, di lanciare dei messaggi positivi legati al tema oratoriale. Quindi un'occasione per stare insieme, per ritrovarsi, per divertirsi e per celebrare e incoraggiare, diciamo, la nostra realtà oratoriale. Voi dell'Azione Cattolica siete abituati appunto a fare tantissimi convegni durante l'anno, vicariali, diocesani, ci sono già degli appuntamenti e delle scadenze prossime. Il 13 maggio ci aspetta quello diocesano. Ecco qua, ricordiamolo, per quanto riguarda Treviso il 13 maggio un altro appuntamento, un'altra grande festa per ritrovarsi sotto il segno appunto dell'Azione Cattolica, e per quanto riguarda il noi ci ritroveremo numerosissimi, abbiamo ancora tempo per iscriversi fino a martedì 3 aprile per quanto riguarda la festa del 15 di aprile. Noi la settimana prossima, ovviamente la settimana santa, non ci troveremo e non saremo qui ai microfoni di Blu Radio Veneto, quindi auguriamo a tutti una buona Pasqua, tanti auguri, subito dopo Pasqua ovviamente sempre sulle frequenze di Blu Radio Veneto, al sabato alle ore 14 e domenica alle ore 12:30 ci saremo con Fuori di Noi. Tanti auguri anche alla regia di Adidaici e a tutti, diciamo, lo staff di Blu Radio Veneto. Ciao a tutti, Anna, tanti auguri, ci risentiamo. Grazie, buona Pasqua a tutti, ciao Cristian. Ciao, ciao. Fuori di Noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto.